Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Nel 1965 il bambino che io ero cominciò a temere in modo inesplicabile l'oscurità della notte. Ho riportato alla memoria quella sera pervasa da una sottile pioggia fluttuante. M'ero già addormentato. Ero così piccolo, mi avevano poggiato sul letto come si fa con un giocattolo. Il ticchettio dell'acqua sulle grondaie esaltava il silenzio. Il sonno si era a gradi impadronito di me, come io poco a poco avevo cacciato nell'oblio il gocciolio della pioggia. Deve essere stato nel momento in cui, calmo e fiducioso, mi abbandonavo al sonno, che mi apparve una strada remota e tranquilla, ai cui alberi e ciuffi d'erba lasciavano ordinatamente il passo. Da lontano si sentì una donna che chiamava con voce di pianto. Quella voce roca che risuonò improvvisamente, spezzando l'incomparabile silenzio di prima, pervase di brividi l'infanzia che rivive adesso nella mia memoria. Questo era l'incipit di L'eco della pioggia di Yu Hua. La Rainbow Quartz Records è un'etichetta che si distingue per il recupero di sonorità del passato con dischi che invece sono assolutamente nuovi. Suoni vecchi, ma anche se sono nuovi. Questo è un esordio dei Sales di fine giugno 2006 per la Rainbow Course. Ci siamo ascoltati The Slow Down, secondo brano che ha caratterizzato quella che è la seconda parte di Eclettica di questa settimana. Invece il primo è anche un brano che ritroverete poi come pillola durante la settimana, un interessante gruppo newyorkese che ritornerà sicuramente nelle playlist di Eclettica di nome The Low Lows. Vi rimando alle playlist di Eclettica per avere il dettaglio preciso di quanto vi siete ascoltati. Playlist che potete trovare in vari luoghi, a partire dal sito www.radiorockfm.com, ma per noi eclettici ci sono due spazi appositi. Uno è la lista nera di Eclettica, grazie alla quale la playlist vi arriva direttamente nella vostra casella di posta, e per iscrivervi mandate un mail a giulio@radiorockfm.com, e l'altro invece è lo spazio disponibile su myspace.com/eclettica, che in questo periodo ha anche avuto una sua ridefinizione in corsa. A proposito dell'indirizzo di mail che vi ho appena dato, nel caso vogliate andare a vedere una serata in cui c'è la coppiata Cesare Basile Willard Grant Conspiracy il 27 di questo mese, potete farlo mandando appunto un mail ed essere soprattutto i primi a farlo allo Zero Music Club di Azzano San Paolo. Ora è la volta della More Music, etichetta che ultimamente non riesce proprio a soddisfarmi. Sono state tante negli anni passati le produzioni More Music che mi hanno in certi casi anche entusiasmato, in altri solo piaciuto, ma ultimamente veramente è la noia quasi a regnare sovrana nelle produzioni More Music. Sono sicuramente un po' duro nei loro confronti, ma sapete, la delusione è più forte verso chi si è molto apprezzato rispetto invece a chi magari si è trattato con un po' di indifferenza. Quindi ci ascoltiamo per dovere di cronaca questa nuova produzione, è svedese a tutti gli effetti il gruppo Guther, prodotti o meglio mixati da Norman Nietzsche dei Contriva, album dal titolo Sundet, dal quale noi ci ascoltiamo la traccia numero 2, Statements. They come and pick back some of the colpa di quella cretina! Fai schifo. Tradire una donna. Lei avrà capito che è stata chiaramente una tattica per non coinvolgere lei in quella che poteva degenerare in una volgarissima rissa. Lei l'ha capito? Grazie. Thank you. E stiamo per arrivare anche a quella che è la fine della seconda parte di Eclettica di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Vi siete appena ascoltati ed era perlomeno due settimane, se non ricordo male, che non passavano, nonostante avessero ritenuto un notevole riscontro da parte vostra, i francesi Cyan and Ben con Sunny Morning, che esce per Ever Records, che vi ricordo far parte del gruppo K7. Molto bella questa canzone, me la porterò ancora per un po' nel mio borsone nero, quindi vuol dire che potrebbe tornare in playlist, non finisce invece negli scatoloni che sono destinati o a quelli mai trasmessi o a quelli trasmessi e che comunque lasciano lo spazio a delle novità. Ora ci ascoltiamo invece in chiusura di questa seconda parte di Eclettica una band la cui etichetta attuale, la Polyvinyl Records, ha deciso di andare a ristampare gran parte del precedente catalogo. Io ho qua a disposizione ben tre dischi, uno originariamente del 97, uno del 98 e uno del 2001, proprio da quello del 2001 che va ad estrarre una canzone. Innanzitutto partiamo dal nome della band, si chiamano Off Montreal, ma loro sono di Athens, Georgia, infatti per esempio ogni tanto capitano musicisti dei Neutral Milk Hotel a dare una mano. Il disco che vi vado a far ascoltare da queste ristampe è The Early Four Track Recordings, sono 16 tracce registrate probabilmente su un 4 tracce, visto il titolo non ho conferme esplicite a questo, ma lo deduco dal titolo di questo disco, che ha la particolarità in tutte le sue 16 tracce di avere nel titolo Dustin Hoffman. Noi ci ascoltiamo Dustin Hoffman Thinks About Eating the Soap. Coming out of my shell, yeah. dialettica. Fine della seconda parte.